e mi hanno incazzato per me. Aspetta, sto guardando sui messaggi. Che mi sa che te l'ho mandata. Allora. Porca la miseria. Ho cancellato la chat, porca miseria. Ho cancellato la chat perché ogni tanto devo cancellare un po' di messaggi. Ti ho mandato quella radio là, quale stavamo parlando, che era in vendita. No, non è quello lì. Il coso, come si chiama? Il negozio. Quello lì. È più la cosa, quella chiavetta là, il bocchetto. Ah, aspetta. Allora, aspetta un attimo, che lo cerco e te lo mando a bagaglio. No, il biglietto senza bagaglio voglio. Ma tu Facebook non ce l'hai però? Sì che ce l'ho, l'ha già detto. Aperto ce l'ho, allora aspetta, ti mando il messaggio su WhatsApp e cosa devi cercare. Come ti ho mandato il messaggio? Si c'è avuto. Ecco, adesso vai su Facebook e cerca lui e gli mandi l'amicizia. Poi per il resto ti serve il link per prenderla, giusto? Se lo vuoi fare in privato io ho anche il suo numero, che ce l'ho su WhatsApp, di questo ragazzo che le vende, capito? 30 euro compreso spedizione, compreso di tutto. Sì. Chi ce l'ha? Te lo sto dicendo su WhatsApp. Fammi sapere così gli dico di prepararne un'altra, un altro kit. Aggiungo un pregio, andare. Capito, tu non fai altro che fare il pagamento e lui te la spedisce direttamente a casa. Mi fai avere il numero. Vuoi il suo numero di WhatsApp? No, quando ti dico del coso, delle... come si chiama? Della PayPal. Vabbè, tu dimmi quando la vuoi comprare e io ti giro il suo indirizzo email di PayPal, capito? E così tu da lì entri sul tuo conto e gli mandi i soldi, capito? E lui ti spedisce il tutto. Sì, andate, già te lo dico quando mi serve. Mi sembra che ho mandato anche qualche video quando la utilizzo. No, video non me ne hai mandato. E beh, è arrivato a te, guarda che sta arrivando un altro. Bazzanda! Guarda, te ne ho mandato un altro, sta finendo di caricare. Sempre con quella chiavetta? Sì. Beh, devi scaricare il programma, fuori. Ma devi installare il programma, devi installare. Ah, devi scaricare nel computer. Installare i driver della chiavetta. Ma è tutto completo nella chiavetta? No, nella chiavetta c'è i driver della chiavetta, poi il programma lo scarichi da internet, capito? Aggiungo un preso. Guarda che ti è arrivato. Ho comprato per... che normalmente pago già, che poi non l'ho neanche utilizzato. Ma questo è per Icom, non devi pigliare un cavo qualsiasi. Ha poco un pregio. Aspetti, sto girando il link. Io ho comprato da un privato, adesso ti giro però un link da cosa, aspetta. Allora, in privato lo paghi 20, spedito. Ho già detto Luca. Se lo vuoi fuori da cosa, da eBay e così lo paghi 20 spediti. Oh. Vediamo da. Vediamo, tutto entro in settimana. E anche questo, sempre tramite WhatsApp, eccetera, eccetera, ti manda il tutto. Sì, vediamo entro in settimana e te lo dico. Guarda, ti sto mandando il link dove comprarlo, guarda quanto costa. Se ti conviene. Certo. Non è caro, Invece in quella maniera lo paghi 20, spedito, capito? infatti l'ho comprato appunto direttamente da lui, e così lo paghi 20 euro spedito. Però poi usi il programma e la radio praticamente non la tocchi. Sì, sì. Facciamo così, lo prendo tutto assieme con la chiavetta, questo cavo è con la chiavetta, entro in settimana te lo dico. Sono due venditori diversi però, eh. Ah, sono due diversi, sono. Sì, sì, sì. Io ho preso uno da uno e uno dall'altro. Ma già è comodo, già è comodo quel cavo, la chiavetta, capito? Io chiavetta ne avevo già un'altra anche, che ho preso forse 6-7 anni fa. Ah, io ce la dovrei avere una chiavetta, però senti se scida. Beh. Adesso me ne deve arrivare una, credo domani, per un altro, per un amico. Sempre completa. Sì, va benissimo. Guardo, entro in settimana, guardo. E poi ti dico, fa uno e l'altro. Chi ha pagato? Vabbè, io ti do i dati e poi tu fai il pagamento. E poi io gli do il tuo indirizzo, capito? Così te lo mandano direttamente a casa tua. Bello. E via. Andiamo bene, andiamo bene. Ma comprendi? Bello. Sì, non è che puoi mettere un qualsiasi cavo, capito? Otto. La chiavetta è fatta in un certo modo, ti mando la foto, non è una chiavetta qualsiasi. La chiavetta è quella che mi hai fatto vedere, il cavo è un altro con un coso solo, no, quello che ho io è a due. Poi ti mando il video. No, il cavo l'ho visto come è, il cavo l'ho visto, quello che ho io è a due. No, ma non è quello capito? È la chiavetta che è costruita appositamente. Non puoi collegare una qualsiasi chiavetta anche se hai un jack mono serio. No, è la chiavetta che è costruita appositamente. Sì, sì, ho capito. Ho visto com'è costruita la chiavetta. Ce l'ho visto. Oggi compreso. E quello lì è quello che va attaccato alla radio. Cosa? E quella chiavetta va attaccata al computer e poi alla radio. Esattamente, guarda, ti ho mandato il video di come è fatta dentro la chiavetta. Non è una chiavetta qualsiasi, che ci sono i classici quattro fili o due fili più e meno saldati. È fatta appositamente, c'è un chip dentro, un circuito, dove serve per collegarla a quel tipo di radio, capito? Non sono tutti uguali. Guarda, ti sta arrivando il video. Ha giù visto. Ho visto come... Hai sentito il signor Luca? L'ho visto com'è. Infatti è tutta diversa da com'è. Certo, non è che puoi attaccare una qualsiasi chiavetta al computer e un jack, e se no non costerebbe così, no? Otto, non è che puoi prendere una chiavetta, l'avrei fatto già anch'io, saldare i due fili e poi un jack, e così bruci tanto bene, capito? Bruci la radio così, perché la tensione dal computer alla radio c'è. Sì, infatti, tensione dal computer radio. E mi dovrò mettere il computer portatile qua, mi dovrò mettere. Puoi usare un tablet anche, il telefono, capito? Puoi usare qualsiasi cosa quando lo devi usare, però già è comoda. E per il tablet devo attaccargli un coso, un riduttore per la chiavetta. Beh sì. Da USB, non so se cosa hai, un TGB. Un iPod c'ho, iPod 2. E l'adattatore devi comprarti, esattamente. E infatti volevo prendere l'adattatore. Aspetta, ma tu hai già quanto costa questo adattatore? 47 euro. Ma vai, fammi vedere l'attacco, magari per TGB. No, di chi sono virai? Proprio di chi sono? Quello del Samsung costa poco, ma quello dell'iPod costa 47 euro, ho già chiesto. E allora ti usi il computer normale, non ce l'hai? Se stai dicendo, devo portare il portatile qua. Intanto, Otto, la radio non è che te la porti, capito? Ce l'hai lì, il computer deve stare lì. Io ho tutto vicino, radio, computer. Si chiama, faccio per accendere il computer, aprire il programma, ce l'ho già. Sì, mi devo fare il foto, un po' di foto per il computer. Allora, anche un portatile va bene. Sì, mi attacco quello che ho nell'ambito, il portatile. Lo attacco qua. Sì, va bene anche un portatile, otto. Tanto le porte USB ce li hai nel portatile, così che... A voglia, ci viene le porte USB. Tanto una volta lo scarichi il programma, quando tu accendi il computer la radio è già attaccata. Non fa altro che aprire il programma e lui ci va in automatico, capito? Sì, infatti, l'unica cosa... Che faccio? Che io me lo metto qua, mi faccio il posto. Me lo tengo a Bettinoghi. E allora? E poi quando c'è la chiavetta usi l'altro programma, capito? SRDR Sharp che è un ottimo programma. Io lo uso ogni tanto, lo attacco. Naturalmente è sempre antenna esterna. Già ce n'è... chiavetta da attaccare. E poi vedi tu se devi comprarti la chiavetta o la scatoletta, quella con la quella doppio attacco delle antenne, hai capito? Infatti. Adesso vediamo, va. È lo stesso programma. Il programma è lo stesso. Però uno, la scatoletta c'ha le due antenne separate, HF e VU, mentre la chiavetta c'è solo un attacco. Infatti, c'ha solo un attacco, quindi devi stare a ciamba antenna. È giù preso. No, un commutatore ti serve, non cambiare antenna. Commuti, capito? Ho fatto il commutare antenna HF, se ti sposti in VU e commuti all'altra antenna. Ma ti vai? Devi collegare lo stesso cavo, lo devi collegare al commutatore. Devi collegare due antenne all'uscita, in modo che commuti dalle VLU alle HF, capito? Però sempre in chiavetta, sempre la stessa chiavetta, con la scatoletta. Un commutatore ti serve. Sì. Devo vedere come fare. Mi hai messo un impiglio. Ho fatto il biglio di commutatori. Capito? La stessa cosa, con la chiavetta. Commutatore, con la scatoletta devi, c'hai sempre due antenne attaccate. È sempre quella la musica, le antenne dei buri. Se devi stare a commutare dall'antenna, dalla chiavetta o dalla scatoletta alla radio. Quello è casino. Infatti, sì, vabbè. Guardiamo come mettere le cose. Un commutatore a due già ce l'ho. Devi avere tre uscite, capito? Per due antenne, più l'uscita alla chiavetta. Sì, guardiamo. Cosa mettere? Già mi arrangio, bagisci. Un attimo, faccio una telefonata. Sì, sono qua, cerchiamo a vedere se c'è qualcun altro. Attenzione, signor Bacchigio! Marino!